Buongiorno a tutti da Antonio Pavolini e benvenuti al 18° numero di Conversational, la rubrica di Radio Popolare Roma dedicata alla rivoluzione dei social media. Sarà mica che mentre qui a Conversational ci balocchiamo con le culture digitali, coi miracoli del crowdsourcing, coi più bizzarri ed evoluti trend uso, l'onnivoro Facebook ci sta sfilando il terreno sotto i piedi. Il sospetto, vedendo le ultime impressionanti statistiche dell'incontrastato gigante dei social network, è più che legittimo. Sulla creatura di Zuckerberg, ogni giorno 500 milioni di persone normali, per niente geek, combina un sacco di cose, belle e brutte, utili e inutili, alimentando quella che per molti è una inestricabile montagna di fuffa, per altri semplicemente l'erede designato della televisione come arma di distrazione di massa. E mentre la stampa tradizionale, quasi in un rantolo di agonia, spara contro Facebook le ultime cartucce neoluddiste, i guru della rete si rinchiudono in un monastico quanto sterile snobismo. Ne parliamo tra pochissimo. Facebook è una droga e non mi dite che non è vero perché state dicendo una grossa bugia, sì. Io sto cercando di disintossicarmi, ma è una cosa più forte di me. Non si può fare a meno di Facebook. Una volta iscritti, avete firmato il contratto con la morte. Perché? Perché iscrivendovi a Facebook, la vostra vita, anche sociale, al di fuori, se riuscirete a viverla ancora, sarà molto più dura e molto più rovinata. Da Facebook ormai nascono i pettegolezzi. Quello si fidanza con quell'altro, però poi sulla chat dice no, è una cosa per far ingelosire a un'altra. È una cosa davvero che ti lascia proprio di stucco. Allora, abbiamo sentito il brano tratto da uno dei tanti video su YouTube che si sentono con questi personaggi, diciamo, in una fascia d'età ormai tra i 12 e i 16 anni, no? Che guardano dritto in camera con una sicurezza anche abbastanza inquietante per raccontare la loro visione del mondo, il fenomeno dei cosiddetti bimbi minchia. Come nasce? Lo chiedo alla mia destra, a Nicola Mattina, che è il primo ospite che presentiamo. Ciao Nicola. Accidenti. Credo che sia genetico l'essere un bimbo minchia. Ecco. Vabbè, no, io speravo ci fosse dietro qualcosa di più profondo. Nicola Mattina, fondatore di Elastic. Sì. Agenzia di comunicazione specializzata, direi, nella comunicazione online, ma anche di tutte le conseguenze offline della comunicazione online, perché organizza, insomma, questi eventi, questi Ignite, questi Working Capital, insomma, è un personaggio molto noto. Invece alla mia sinistra, il professor Davide Bennato. Buongiorno a tutti. Professor Bennato, che adesso io ogni volta devo ricordarmi, insegni sociologia della comunicazione? No. La dizione esatta è sociologia dei processi culturali e comunicativi. Ecco, fantastico. Per gli amici, per sociologia della comunicazione. Alle università di Roma e di Catania. Catania. Ah, solo Catania? Catania, okay. Ormai sono... Va bene. Allora. Sono un uomo del sud a pieno titolo. Benissimo, perfetto. Allora, siamo qui per parlare naturalmente dell'ipertrofia di Facebook, che ha ormai largamente scavalcato, superato, diciamo, quello che viene chiamato in gergo il tipping point, cioè il punto oltre il quale non c'è spazio più per nessun altro. Fenomeno che fu per la prima volta visto molto chiaramente con Skype, per esempio, no? A un certo punto, se tu volevi fare una telefonata over IP, o eri su Skype, oppure sì, c'erano delle alternative, ma c'erano meno utenti e quindi la gente tendenzialmente si iscriveva lì. La stessa cosa succede sui social network. Per un po' è esistito un dualismo con MySpace, con altri luoghi dove le persone condividevano contenuti. Adesso Facebook, non a caso definito onnivoro, è ormai diventato l'unica possibilità. Insomma, questa rete che viene definita come democratica, in realtà poi alla fine vince uno, cioè l'asso piglia tutto e per gli altri le briciole. Nicola. Sì, ci sono dei... Sicuramente Facebook rappresenta un esempio, ma come anche Google prima di Facebook, ovviamente anche se in un altro settore, di quel fenomeno per cui nelle reti chi è ricco diventa sempre più ricco sostanzialmente, quindi chi è ricco di connessioni diventa sempre più ricco di connessioni, diventa sempre più importante, sempre più potente. Però devo dire che in questo c'è anche una nota di ottimismo, nel senso che ci sono stati la velocità con cui crescono questi sistemi è uguale, a volte anche diciamo più impressionante, la velocità con cui decadono. Se noi pensiamo che qualche anno fa MySpace era considerato, cioè non c'era spazio per null'altro che non fosse MySpace, e MySpace doveva essere l'attuale Facebook. Poi il fatto che l'abbia compiato la News Corp è riuscita, come dire, sapientemente a distruggerlo. Ecco, con questo mi stai dicendo che anche l'ultima creatura di Murdoch, questo giornale elettronico per tablet, potrebbe, The Daily si chiama, potrebbe fare la stessa fine. The Deadly, potrebbe diventare The Deadly velocemente. Allora, Davide, commentiamo questi numeri un po' inquietanti sulla crescita di Facebook appena usciti sul sito onlineschools.org. Intanto, 500 milioni di persone. Il titolo di questi numeri è Facebook Obsession, e va bene, però il problema è che questo miliardo di persone fa delle cose inquietanti per tutta l'industria dei media, perché, diciamo, addirittura negli Stati Uniti il 48% delle persone tra i 18 e i 34 anni appena sveglie la prima cosa che fanno è controllano la pagina di Facebook. Il 57% delle persone negli Stati Uniti parla, comunica più online che nella vita offline. Il 48% degli americani scopre le notizie prima su Facebook e poi su qualsiasi altra cosa, cioè il luogo dove scopriamo quello che succede nel mondo è Facebook. Qui abbiamo discettato nelle puntate precedenti di cose tipo che fine faranno i giornali, ma mi sa che Facebook risolve il problema alla radice. Guarda, a buon senso ti posso dire una cosa, che la cosa interessante di questi dati è che fondamentalmente fanno notare una cosa, che Facebook è un ottimo strumento per tenere sotto controllo la propria vita sociale rispetto agli altri. Quindi, detta così, sembra una cosa assolutamente formale e lontana dall'esperienza di vita quotidiana, ma in realtà somiglia moltissimo alle esperienze che noi abbiamo quando nei piccoli centri ci affacciamo dalla finestra per vedere che succede giù in piazza. Quindi, per certi versi, Facebook da questo punto di vista potrebbe essere interpretato come l'espressione del villaggio globale, no? Proprio in termini McLuhaniani, ricordando appunto Marshall McLuhan, cioè uno strumento con cui io vedo la mia posizione nel mondo, il mio mondo, della mia rete di relazioni e cosa stanno facendo gli altri. Quindi che sia di base un modo per fare personal gossip o personal branding, da un altro punto di vista, secondo me, e gioco forza. Quindi sono più dell'avviso di considerarlo più uno strumento che sta virando, in termini ovviamente tecnologici, social media, in termini ormai globalizzati, pratiche che comunque sono presenti nella vita quotidiana, anche se ovviamente con un livello di complessità e con un livello di ampiezza della propria audience molto molto diversi. Ecco, tornando proprio alle varianti tecnologiche, una svolta tecnica di Facebook degli ultimi anni è la pervasività, cioè il fatto che tu trovi in sostanza alcune funzionalità base di Facebook, come il like e adesso addirittura i commenti con l'ultimo plugin, le trovi su tutti i siti web, perché nel momento in cui tu dai a Facebook il permesso di mettere le mani su qualsiasi pagina web dove vai, ecco che alla fine è lì il luogo in cui tu esprimi la tua preferenza, il tuo like, è lì il luogo addirittura adesso della conversazione. È la morte dei blog? No, assolutamente no. No, perché in realtà, diciamo, Facebook si appropria solamente della parte di conversazione, in qualche modo, si appropria. Diciamo tende a gestire la parte di conversazione, ma non si sostituisce a quello che poi è la voce narrante, che è la caratteristica tipica di un blog. Un blog ha sempre una voce narrante, mentre Facebook è un posto, okay. È un luogo dove la gente si incontra e conversa, e quindi il fatto di tendere a spostare la conversazione verso dei luoghi piuttosto che lasciarla all'interno di un singolo blog, come dire, è una tendenza abbastanza naturale, mima abbastanza quello che accade nella realtà. Ecco, però va detta una cosa: Facebook, che all'inizio travolse tutto il mondo dei social network perché aveva aperto alla creatività e all'intelligenza distribuita delle terze parti, questi sviluppatori che creavano questi oggetti, che creavano poi una grande fuffa, certo, si diceva, su Facebook. Però intanto in questo modo ha acquisito una massa critica che gli ha dato la preminenza su tutto il resto. Oggi che ha capito quanto rumore in realtà genera tutto questo, Facebook ha messo a disposizione degli individui, rinnovandosi, degli strumenti per contenere tutto ciò che è spam, lasciami dire, che ormai viene confinato nella colonna sinistra, e la vera conversazione, no? Le cose che veramente contano, in modo un po' più intelligente, si ritrovano nel frame centrale della pagina di Facebook. Sì, allora, Facebook si posiziona come il soggetto che sulla rete ti permette di gestire il grafo sociale, cioè loro sono l'entità che mappa la rete di relazioni nel mondo. Dopodiché noi dobbiamo fare attenzione però a una cosa, che è vero che Facebook ha 500 milioni di utenti in questo momento e passa, però come dire, noi continuiamo a interagire in gruppi sociali piccoli, quindi il grafo non è un grafo totalmente connesso all'interno, diciamo, all'interno di Facebook. Noi continuiamo ad accumulare il nostro capitale sociale e a fare delle cose con le persone che sono nei nostri vicinati. Ecco, ora non è più un vicinato fisico, nel senso che non vado più in piazza, non vado necessariamente in piazza al paese al bar a stringere le mie relazioni, a coltivare le relazioni, ma è un vicinato un po' più ampio, ma rimane un numero molto circoscritto di persone. Questo è anche poi un punto di debolezza di questi sistemi, perché c'è un fattore generazionale che non può essere, secondo me, sottovalutato. Facebook è giovanissimo, Facebook c'ha qualche anno, stiamo parlando di una roba che c'ha meno di 10 anni, quindi c'è una questione generazionale fortissima. Se la prossima generazione di persone, invece di andare su Facebook, va sul nuovo Facebook, automaticamente questo porta a una migrazione verso quel sistema e porta un'accumulazione di capitale sociale su quel sistema. Ma tu pensi, Davide, pensi che sia ancora possibile che esista un nuovo Facebook che uccide questo Facebook qua? Guarda, la cosa secondo me è molto problematica, proprio perché Facebook ha un'identità molto, paradossalmente molto lasca, nel senso che è un brand molto riconoscibile, ha delle funzioni assolutamente, perché ormai fanno parte della vita digitale di ognuno di noi, chi di più chi meno. Ma quello che ha di interessante Facebook è che è proprio una metis, cioè proprio un'intelligenza che si adatta via via ai cambiamenti del mercato e alle modifiche di mercato. Quindi questa sua natura multiforme, proteiforme, fa sì che appunto non ci sia spazio per the next big thing, no? Per un nuovo social network. Anche se secondo me, vedendo un po' quali sono state le strategie che hanno trasformato Facebook in un player di rilievo, ma per certi versi anche iTunes in un player interessante per quanto riguarda il mercato delle app, sicuramente si possono imparare dei modi per cercare di saltare questa fase. Però sicuramente proprio la pervasività e la permeabilità, il modo proteiforme con cui Facebook si presenta in questo mercato mutevole, mutando anche egli, ovviamente lo rende una minaccia assolutamente assolutamente assolutamente consistente. Bene, e quindi per intanto misurare l'effetto devastante che ha Facebook sul vecchio mondo, sui media tradizionali, non c'è niente di meglio che sentire la loro reazione scomposta. Ascoltiamo questo inserto tratto dal TG4. Tempo al giorno dedicati a Facebook. 3 ore la sera. 3 ore al giorno. Sì, di sicuro 3 ore. E tu quanti anni hai? 14. E tu invece quanto tempo passi su Facebook? Un'oretta e mezza, anche se mia madre è spesso lì, cioè lei vuole vedere cosa faccio, questo sì. Però... Perché? Perché lo ritiene pericoloso? Sì, mia madre lo ritiene pericoloso perché appunto pensa che possano infiltrarsi persone che possano essere pericolose. Mi permetti a persone che non conosci bene di entrare nella tua vita, di vedere le tue foto, di vedere chi sono i tuoi amici. Lei riesce a controllare il suo figlio quando va su Facebook? Assolutamente no. Si iscrive chiunque. Girano filmati comunque sia dalla pornografia, comunque scene anche violente, che loro si guardano. È pericoloso perché ci si possono infiltrare delle persone adulte che hanno cattive intenzioni, che sfruttano questo strumento per poter agganciare i ragazzini. Insomma, è un dramma vero, autentico, al di là che milioni di italiani, parliamo di italiani, non so quanti sono nel mondo, ci interessano gli italiani, sono presi da una sorta di paranoia. Una sorta di paranoia, dice Emilio Fede, col suo linguaggio che non possiamo sottovalutare, perché comunque va nelle case di centinaia di migliaia di persone, anche se sicuramente di una certa età, di persone facilmente suggestionabili sotto questo profilo, suggestionabili soprattutto nel temere qualcosa che non si conosce. Come commenti, Davide, il modo che ha la stampa, la televisione tradizionale nel definire i nuovi mezzi? Allora, panico morale. Il termine praticamente è un termine che viene usato nelle scienze sociali per descrivere, per esempio, il modo con cui i media cercano di costruire un'immagine di quello che potrebbe essere un eventuale nemico, no? Il termine nasce nell'immediato dopoguerra in Inghilterra per descrivere appunto il modo con cui veniva rappresentato le subculture giovanili, soprattutto mods e rockers, cioè si creavano intorno un vero e proprio panico morale, come se fossero portatori di svalori che non fossero funzionali alla società. Tra l'altro gli studi fanno notare che questo è un meccanismo da parte dei media mainstream di elaborazione di un nemico attraverso le strategie del panico morale. Hanno anche interessato, per esempio, YouTube all'epoca di quando stava diventando uno strumento per molto, molto importante per l'user generated content. Quindi da questo punto di vista mi sembra ovviamente che i media cerchino di non dialogare con questi strumenti, ma fondamentalmente di costruirne un'immagine molto spesso semplificata. Ma la cosa interessante è che effettivamente Facebook però ha un valore aggiunto, come tutti i social network, lui in particolare perché sta diventando quello più importante, e che effettivamente i social network nascono con la caratteristica di elaborare meccanismi di socializzazione fra adolescenti lontani dai meccanismi di controllo dei genitori, che è un modo complicato per dire che è il successo che hanno questi strumenti per gli adolescenti, proprio perché si riescono a sottrarre al controllo genitoriale quando cominciano a instaurare rapporti col proprio gruppo dei pari, quindi con i propri amici, compagni di scuola e così via dicendo. E quindi è proprio il consentimelo di dire in termini marketing, è proprio il core business di Facebook quello di far sì che gli adolescenti si riescano a sottrarre al controllo dei genitori. Ecco, ma al di là di questo fenomeno di disintermediazione generazionale, sono riuscito a dirlo tutto senza mettermi a ridere, Nicola, non vedi in questa reazione anche il fatto che forse i media tradizionali hanno fiutato che questo è il primo vero grande fenomeno di massa? Cioè fino ad allora stampa, televisione, radio guardavano comunque verso internet come una somma di tante nicchie, ma invece Facebook è il primo vero grande fenomeno di massa, e quindi questa è una specie di riflesso condizionato, cioè la paura verso il colpo di coda, diciamo, verso chi sta per sferrarti il colpo finale. Non ci sono dubbi. Allora, c'è un dato di fatto che se un ragazzo mi dice io la sera passo 3 ore davanti a Facebook a chiacchierare con i miei amici, non li passa probabilmente davanti alla televisione. O se li passa con il computer acceso e davanti alla televisione gli butta un occhio molto distratto. Ora, noi negli ultimi 40 anni, cioè negli ultimi 50 anni, sostanzialmente in qualche modo abbiamo deciso che il modo migliore per passare il nostro tempo libero era davanti alla televisione. Che oggettivamente, se tu ci pensi, è un'idiozia, nel senso che stare davanti a una televisione per 2, 3, 4 ore al giorno non è... Negli anni 80 si diceva anche i ragazzi 5-6 ore al giorno, negli Stati Uniti 6-7 ore al giorno si diceva. E io mi ricordo che c'era la paura della televisione, questi ragazzi davanti alla televisione diventeranno una comitiva di... dei bosciati davanti alla televisione e via di seguito. Io sono nato negli anni 70, quindi... come dire, non mi sono debosciato per la televisione, su questo non ci sono dubbi. Io trovo tutto sommato che il passare del tempo su internet, a prescindere dal luogo dove si passa del tempo, l'importante è che si passa socializzando con la propria rete di relazione e con delle proprie reti di interessi, quindi che vanno al di là della conoscenza fisica, del fatto di essersi conosciuti a scuola piuttosto che in altre circostanze, ma che permettono di coltivare degli interessi con persone che sono anche distanti da di noi, sia tutto sommato una questione estremamente positiva. Ed è un modo che ci sottrae a il fatto di essere passivi davanti a un monitor a guardare qualcosa che ci propinano, e invece ci permette anche di costruire della creatività. Clay Shirky ha scritto un libro su questo che si chiama Surplus Cognitivo, che dice appunto che da quando la gente ha cominciato a capire che invece di stare davanti alla televisione può stare su internet, ha cominciato a creare delle cose su internet e a fare delle cose insieme. Ora è troppo facile citare sempre Wikipedia, però non è importante che sia un contenuto enciclopedico. Anche il social network dei cani e dei gatti, in cui ci si scambia le fotografie dei cani e dei gatti, va bene, perché comunque è un modo di socializzare una passione, una cosa che ci diverte, una cosa che ci permette di entrare in contatto con gli altri. Anche semplicemente che ci fa stare meglio, perché esatto, la fotografia di un gatto che sembra essere un, automaticamente un successo ovunque venga condivisa, ci fa stare, sta fare meglio noi su Facebook, e non ascoltare Bunga Bunga 365 per esempio, giorni l'anno, per esempio. Allora, virando un attimo, io qui sotto gli occhi ho una di queste fulminanti infografiche che circolano su internet e che in una torta raccontano la struttura proprietaria di Facebook. Si intitola Who owns Facebook? Chi possiede Facebook? E ci sono insomma tanti spicchi colorati. Il più grosso a occhio sembra quello di Zuckerberg col 24% su un totale che vale 65 billion di dollari, quindi 65 miliardi di dollari, una cosa che fa caponare la pelle. Però ecco, interessante che tutto lo staff di Facebook, quindi il programma di azionariato aziendale, arriva al 30%, quindi supera la quota dello stesso Zuckerberg. Davide, è interessante perché insomma, se ricordiamo questo film del social network, la figura un po' onnivora di Zuckerberg ne risulta poi abbastanza ridimensionata, no? Cioè, se vediamo un po' la composizione rispetto all'infografica che mi fai vedere, che è molto divertente, mi fa capire quanto sono interessi in gioco. Ecco. Quindi si parla sempre di Zuckerberg, però in realtà i soldi che io qua vedo citati, Goldman Sachs, Digital Sky, eccetera, eccetera. Fondi di investimento, Digital Sky, anche un po' misterioso, questo fondo russo che è il 10% di tutta Facebook. Sì, quello che significa 6 billion dollar. Esatto. 6.5. Comunque sono un sacco di soldi, quindi comunque secondo me bisogna a me piacciono molto gli americani con la loro brutalità pragmatica, no? Dicono che se tu vuoi capire un fenomeno, follow the money, dicono, cioè segui i soldi, e seguendo questi soldi che sono dentro Facebook nascono tutta una serie di domande piuttosto curiose. È interessante notare che Sean Parker, che era uno dei fallimentari fondatori di Napster, anche lui presente nel film del social network, sì, no? Questo figaccione californiano che convince i due fondatori di Facebook a spostarsi in California e poi dà un'impostazione a tutto il lavoro, non combina nulla di particolare per Facebook, a parte togliere l'articolo, quel The, no? Sì, esatto. Per prima si chiama The Facebook. E poi da quel momento in poi, come grande scelta di marketing, è rimasto solo Facebook. Ebbene, Sean Parker ha ancora, pur non avendo fatto nulla e avendo distrutto l'industria discografica con Napster nella prima ondata di internet, comunque conserva un simpatico 4% di questa fetta, che equivale a 2 billion dollari, cioè 2 miliardi di dollari. È abbastanza beato lui, ecco. No, c'è gente che si sbatte un sacco insomma per guadagnare questi anche 20-30 mila euro l'anno. Va bene, adesso sentiamo un altro inserto con la voce di Luca Colombo, che è country manager di Facebook Italia, che ci racconta le strategie per il nostro paese. $500 milioni di utenti al mondo ogni mese, 200 milioni di utenti ogni mese su mobile. In Italia 19 milioni di utenti al mese, 12 milioni di utenti al giorno, 4 milioni di utenti mobile. Ieri ho fatto un intervento alla Social Forum della Comunicazione Digitale, in cui ho parlato sostanzialmente di come vediamo il mondo noi cambiare. Anni 90 internet utilizzavi con logiche di navigazione, il sito, i link, l'albero di navigazione, cioè era l'editore, il sito che ti diceva dove potevi andare, scoprivi le informazioni attraverso quello che era la user experience del sito. Nel 2000 hai cominciato a cambiare abitudini, non era più il sito che guidava la tua navigazione, era il motore di ricerca, cercavi, trovavi e navigavi attraverso una ricerca. Quante volte oggi tu scopri un contenuto, un qualche cosa con un tuo amico che ti ha dato un link, oppure andando su social? Oggi la scoperta delle informazioni sta avvenendo attraverso, definiamo social, però non sto dicendo che è abbandonato il search, figuriamoci, però quanto scopri tu oggi qualche cosa sulla rete grazie alle persone? Per cui il nostro concetto è proprio, gli ultimi 20 anni è stato l'information web, l'informazione, navigazione, ricerca, chi ha guidato la tua esperienza oggi sono le persone. C'è una presentazione che noi chiamiamo sempre It's all about people, sono le persone sempre più che guidano questa esperienza, che la può applicare in n dimensioni, dalla condivisione alla connessione, comunque un luogo che è particolarmente interessante, anche un locale che diventa particolarmente interessante è cool perché sono le persone che lo fanno diventare cool. La stessa cosa succede su Facebook, la stessa cosa succede su N social network, e tu lo scopri perché i tuoi amici, passaparola, te l'hanno fatto scoprire. Essere in alto in un ranking semplicemente perché il ranking in Google non è legato alle persone, è legato unicamente a quante persone hanno cliccato oppure quanto hai speso in pubblicità, eccetera eccetera. Qua sono le persone che, e è proprio in questo senso che c'è una slide che fa vedere anni 90 navigazione, anno 2000 search, a 2010 scoperta, e la scoperta è un po' quello che ne vediamo legato alle persone. Allora, era la voce di Luca Colombo, country manager di Facebook Italia, che chiaramente dal suo punto di vista vede una internet spostarsi dall'essere un mondo in cui a un certo punto ti cristallizzavi davanti a una barra di ricerca e neanche tu sapevi che cosa volevi cercare, ed è vero perché è una situazione in cui ogni tanto ci siamo trovati qualche anno fa, adesso ci capita sempre meno. Perché? Perché c'è sempre qualcuno che ci dice guarda quanto è fico questo, Davide. Guarda, te lo dirò con tutto il disincanto di uno studioso di social media e di mezzi di comunicazione digitali. Secondo me il discorso che faceva Colombo è tutto un modo molto marketing, marketing anni 90 / web 2.0, per ricicciare una famosa frase di Thomas Jefferson che diceva: ci sono due modi per sapere le cose, o le sai o c'è qualcuno che te le dice. Quindi da questo punto di vista mi sembra assolutamente la scoperta dell'acqua calda, se mi permetti. Beh, però scusa Nicola, io come sai mi occupo del problema, per esempio, di far passare noi contenuti da un luogo dove si interagisce molto, come il computer, a un luogo dove si sta passivi, come la televisione, mm-hmm. No? Dall'in forward cosiddetto all'in back, ne abbiamo parlato. Beh, un buon, se pretendi, diciamo, di cercare un video su una barra di ricerca dove devi scrivere qualcosa con una tastiera alfanumerica per lo schermo del salotto, non funziona. Quindi il discovery rimane re almeno della situazione della living room, no? È il sistema di raccomandazioni che è sempre esistito, nel senso che noi lo stiamo digitalizzando. Noi diciamo la ricerca avviene o è una ricerca attiva, hai bisogno di qualcosa, vai su Google, su quello che sia, su Yahoo, eccetera, e cerchi, tant'è vero che voglio dire, a un certo punto qualcuno ha detto che Google era un grande database di intenzioni, ed è lì che hanno capito che c'era un potenziale commerciale. Cioè, se io vado lì a cercare qualcosa vuol dire che ho bisogno di qualcosa, e nel momento che ho bisogno di qualcosa c'è qualcuno che mi può offrire una risposta a pagamento a quel qualcosa. L'altra modalità con cui si fanno le ricerche è la ricerca passiva, cioè io ho interesse a qualcosa, comunque sono inserito all'interno di un flusso di informazioni e mi ci inserisco perché se sono un appassionato di calcio cercherò di essere colpito da un flusso di informazioni che riguardano le scuole di calcio. Se sono appassionato di social media cercherò di inserirmi in un flusso di informazioni in cui mi arrivano comunque queste informazioni addosso. Quindi io con il mio account su Facebook piuttosto che con il mio account su Twitter ho una serie di persone nella mia rete di relazioni che non fanno altro che fare da filtro umano e mettono in questo flusso, diciamo, in questo river of news che mi colpisce ogni giorno una serie di notizie. Poi sono io che ne prendo casualmente quelle che mi interessano. Ma è un sistema di raccomandazioni che funziona sempre all'interno delle reti sociali. Poi all'interno di una rete sociale ci sono dei gateway informativi, cioè ci sono delle persone che sono considerate particolarmente competenti su un argomento a cui ci si rivolge o da cui comunque si tiene l'orecchio più attento verso quella persona, perché noi sappiamo che da quella persona possono arrivare delle notizie più interessanti. Quindi in realtà il meccanismo è che i filtri delle macchine sono ancora così inefficienti che abbiamo bisogno degli uomini per avere dei filtri efficienti. Sì, infatti è interessante che Nicola abbia citato fondamentalmente i due modelli di comportamento sociale che sono stati implementati ormai da un po' dai social media, che sono da una parte DIG, cioè il sistema di raccomandazione che comunque esiste in una funzione anche su eBay, e poi ovviamente Quora, no? Il nuovo social network in cui si fondamentalmente quando ti chiedi le cose non le chiedi sì, ad un pubblico proprio, generico. Non è granché decollato Quora, diciamo. No, perché Quora no, perché è ancora troppo, secondo me è ancora troppo complesso. Cioè nel senso bisogna lavorare molto di più sull'immediatezza. Va bene, allora a proposito di raccomandazioni però oscurantiste, direi facciamoci ancora un po' del male e sentiamoci ancora un po' di Emilio Fede. Efficace. No, bisogna farlo assolutamente per tentare di prendere le mani nel sacco quei delinquenti, sono autentici delinquenti, quelli che propongono, ripeto, ci sono siti nei quali si indica un nome di una persona, dice uccidiamolo. Allora, il nostro sondaggio prosegue fino alla chiusura dell'edizione e riprende domani alle 19. Il nostro sondaggio, vediamo prima il sondaggio, poi diamo... No, allora, eccolo qua. Potete intervenire... dicendo sì o no all'intervento subito rigoroso e contro Facebook in generale, da cellulare con sms al 48488 da un telefono fisso chiamando 89494901 e vediamo finora le telefonate. La percentuale fino a questo momento, le telefonate sono state 2600, il 78% dice sì, bisogna intervenire, Facebook e quei siti di Facebook vanno chiusi, e invece soltanto il 22% dice no. Insomma, quei siti di Facebook vanno chiusi, dice il 78% delle persone, delle 2500 casalinghe di Voghera che sì, hanno... Adesso non facciamo queste osservazioni snobbistiche, Nicola. Sono delle persone che comunque, come dire, orientano il consenso in una determinata fascia d'età, fascia di reddito, eccetera. Però la cosa affascinante è che la vecchia televisione, i vecchi media addirittura organizzano sondaggi per dimostrare come il popolo dei buoni, il popolo di quelli che non tramano pericolose attività chiusi nelle loro camerette, vorrebbero chiudere Facebook. Cioè, ma si può chiudere? Cioè, tecnicamente, se anche nel merito fosse giusto, ma come si può pensare di chiudere una cosa come Facebook, Nicola? Bisogna chiederlo alla Cina. Vabbè, i cinesi hanno delle leve particolari, no? Per agire su internet, perché hanno the great wall of the great firewall, esatto, the great firewall of China. Però sì, ecco, anche quelli vengono bypassati, no? Ma allora, il signor Fede è un signore anziano che ha ovviamente tutti i limiti culturali anche del fatto di essere abituato a fare televisione da credo 50 anni più o meno, da quando è nata la televisione. E, sì, però lasciami dire, un certo tipo di televisione, perché se gli chiedevano, guarda, sali su un elicottero e fai vedere che forse il cadavere del primo ministro sta in quel lago, e lui ci andava senza fare troppe domande, non mi sembra che sia granché cambiato l'atteggiamento a distanza di tempo. No, ma voglio dire, non... ma ovviamente non, allora, noi ormai siamo immersi in un flusso continuo di informazioni che non si può fermare. E questo flusso di informazioni, ma questo flusso di una nuova in qualche modo coscienza, se noi guardiamo a tutto quello che sta succedendo nell'area, che è successo e sta ancora succedendo nell'area del Maghreb, in cui le generazioni più giovani di fatto a un certo punto hanno deciso di cambiare strada, di ribellarsi. Beh, ma insomma, voglio dire, anche il fatto che quelle società sono nel frattempo diventate le società più aperte grazie alle contaminazioni culturali. Allora, se noi vogliamo ritornare verso le società chiuse, possiamo ritornare verso le società chiuse, ma è una cosa anacronistica e probabilmente impossibile da realizzare, perché anche le società più chiuse hanno poi alla fine dei meccanismi di filtraggio e vengono ibridate dalle società aperte. Va bene, allora noi siamo arrivati quasi alla fine della nostra puntata. Io ne vorrei approfittare intanto, visto che abbiamo Nicola Mattina, che è un po' il grande organizzatore di questi Ignite, di questi incontri molto rapidi e veloci che si svolgono sui temi della rete. Domani succede qualcosa che organizzi tu oggi? Ah sì, scusami, è oggi. Oggi pomeriggio. Siete ancora in tempo per recarvi tutti dove? All'università Roma 3. Alla Roma 3, alla facoltà di informatica, piazza Aspetta, Via della Vasca Navale. Via della Vasca Navale, esattamente. Sì. C'è un grande evento che si chiama Codemotion, che è un evento che raccoglie circa 2000 programmatori, sviluppatori tecnici. All'interno di questa manifestazione molto importante, noi facciamo un Ignite. Gli Ignite sono un format molto interessante perché sono interventi di 5 minuti che però devono essere fatti obbligatoriamente con 20 slide che scorrono ogni 15 secondi. Questo obbliga la persona a prepararsi molto molto bene l'intervento, e quindi si hanno tantissimi interventi da 5 minuti, ma ogni 5 minuti è una perla, un succo, un concentrato di cose interessanti. Che poi vengono ripubblicate sul sito igniteitalia.org, esatto, dove uno se li può rivedere tutti in video, le slide e tutto quanto. Esatto. Insomma, vi invito a andare a vedere, poi per i dettagli www.codemotion.it. Ricordo ancora il blog di Davide Bennato, dove tutte queste sue ricerche vengono pubblicate, che è tecnoetica.org. It, mi corregge, punto it, e invece blog.nicolamattina.it è il blog di Nicola Mattina. Io ne approfitto ancora una volta per salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.